L'Indonesia rischia di non avere osservatori dell'Unione Europea alle elezioni legislative previste in aprile. Secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche europee, il commissario per le relazioni esterne della UE, Chris Patten, ha inviato una lettera a Giacarta in cui avrebbe minacciato di non inviare in Indonesia la missione di osservatori elettorali, una misura che, se dovesse essere messa in atto, priverebbe il governo di Megawati della legittimazione internazionale necessaria per portare a termine in modo trasparente e regolare le elezioni politiche che saranno poi seguite dalle presidenziali in giugno. Le prime con elezione diretta del Presidente. Il contenzioso è nato su Aceh, la zona nord dell'isola di Sumatra, dove dal 19 marzo scorso è in corso una guerra contro i separatisti del Gerakan Aceh Merdeka, la guerriglia secessionista con cui Giacarta ha rotto unilateralmente il negoziato alla vigilia della proclamazione della legge marziale e dell'invio di un corpo di 30-40 mila uomini per avere ragione della guerriglia cinese. Quando indonesiani ed europei hanno concordato l'arrivo degli osservatori elettorali per monitorare le elezioni di aprile e di giugno, l'Indonesia ha posto un veto su Aceh e su Papua, la provincia orientale in odore di secessionismo. La UE si è ovviamente opposta a una scelta programmata dei seggi imposta da Giacarta e ha iniziato a negoziare fino al punto morto che ha costretto Patten a una scelta senza precedenti. Emanuele Giordana, lettera 22 a Misnet.